vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 1 novembre, il sole in regione sorto alle 6.49 tramonterà alle 16.52, la luna è calante, siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Io sono FVG, è il neonato marchio regionale per la promozione dei prodotti dell'agroalimentare, con particolare attenzione per la sostenibilità. È il tema del servizio di apertura, a cui seguirà un commento, per dire il vero amaro, sull'approvazione del testo della nuova politica agricola comunitaria, testo che non avrebbe tenuto in considerazione le raccomandazioni arrivate dalla gente. Quanto vino si produce, quanto se ne beve e dove? Le risposte nella rubrica dell'enologia, per passare ai consigli pratici per farsi il compost in casa, momento strategico per avere un buon orto. Per i prodotti tipici regionali non poteva mancare la grappa, come non poteva mancare la iota nello spazio dedicato alla gastronomia. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale, il proverbio friulano della settimana, chiudono la puntata. C'è un nuovo marchio collettivo per la promozione delle aziende e dei prodotti agroalimentari della nostra regione. Io sono Friuli Venezia Giulia, questo è il marchio. Ne parliamo con Claudio Filippuzzi, che è il presidente del cluster agroalimentare del Friuli Venezia Giulia di Coloredo di Monte Albano, che lo ha sviluppato e ne seguirà il lancio, prima a livello regionale e poi a livello nazionale. Innanzitutto, quali i compiti che vengono affidati a questo marchio? Nasce come frutto di alcuni ragionamenti fatti nel periodo del lockdown. Ci siamo resi conto delle necessità di avere un marchio ombrello. Il compito è quello di consolidare l'immagine prima di tutto delle aziende del Friuli Venezia Giulia e poi naturalmente anche dei prodotti a loro correlati. Vino compreso? Vino compreso. Che caratteristiche un'azienda o un prodotto deve avere per potersi fregiare di questo marchio e cosa si deve fare per ottenerlo? L'azienda entra nel sito di www.iosonofvg e lì trova tutte le istruzioni e la richiesta viene fatta in digitale. L'azienda deve fondamentalmente rispondere a tre requisiti, quelli della sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e sostenibilità sociale. Quindi si è puntato a questo aspetto per quanto riguarda le aziende. Naturalmente le aziende devono avere sede produttiva in Friuli Venezia Giulia, pagare le tasse in Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo evidentemente è quello di valorizzare chi contribuisce alla crescita di questa regione. Una volta ottenuto il marchio, potranno in seguito chiedere naturalmente anche il riconoscimento dei loro prodotti che verranno marchiati. Il marchio è lo stesso, cambia soltanto lo sfondo. Abbiamo detto che si inizia a farlo crescere intanto in regione. Come e quali saranno i passi successivi? Abbiamo già raccolto le adesioni, sono oltre 60 aziende che hanno già fatto richiesta del marchio. La scorsa settimana si è insediata la commissione, che è composta prevalentemente da personale della regione che ricopre ruoli all'interno delle varie enti come sistema di controllo, perché le dichiarazioni delle aziende andranno verificate. Il passo successivo è la prossima settimana avere le prime imprese già marchiate e quindi a ruota evidentemente seguire quello che è la nascita dei primi prodotti che contiamo per Natale siano presenti. La parte di marketing passerà attraverso prima un consolidamento a livello regionale, perché è necessario raggiungere anche una certa quota, una certa dimensione per poter dare spessore al marchio, altrimenti rimane un qualcosa per pochi intimi e quindi di nessun valore. In seguito verrà fatta un'operazione a livello nazionale e infine, una volta consolidata anche questa situazione, andremo sul livello internazionale. Per averlo bisogna anche che ci sia una specificità regionale. Abbiamo voluto essere estremamente laici, ovvero ci saranno prodotti che al 100% dovranno avere materie prime friulane. Perché? Perché in Friuli Venezia Giulia c'è la produzione sufficiente per giustificare il fatto che ci siano prodotti integralmente al Friuli Venezia Giulia. Il regolamento dice che di default deve esserci il 50% di prodotto friulano all'interno degli ingredienti. Però questo 50% in funzione di considerazioni che vengono fatte anche dalla Commissione può aumentare fino al 100% oppure diminuire laddove non ci sia una sufficiente produzione regionale. Il fico d'India non potrà essere comunque marchiato Friuli Venezia Giulia, a meno che non ci sia qualcuno che produce fico d'India in Friuli Venezia Giulia. Ah, col cambiamento climatico sarà possibile. Arriveremo anche così ad un auspicato riordino della selva dei marchi? Sì, c'è stata anche una richiesta in sede del Consiglio regionale che per avere una commissione che riveda un po' il panorama dei marchi per dare ordine al sistema. Il presidente Fedriga, d'altra parte, ha già dichiarato che questo vuole che diventi il marchio del Friuli Venezia Giulia. Questo significa che dopo il consolidamento nel settore agroalimentare dovremo ragionare su come estendere il marchio ad altri settori. C'è scontento per l'approvazione del nuovo testo della politica agricola comunitaria che, a detta di molti, non ha tenuto in minimo conto quanto raccomandato non solo dagli addetti ai lavori in materia di salvaguardia. Le osservazioni di Cristina Micheloni per la rubrica del biologico. Ricordate l'ampia consultazione dei cittadini europei condotta dalla Commissione nel 2016-17? Quella a cui avevano partecipato 60.000 persone sulla modernizzazione e semplificazione della politica agricola comune, detta PAC. Da lì era uscita forte e chiara la richiesta di concentrare le risorse della PAC, che non sono noccioline ma ben il 30% del bilancio comunitario, su attenuazione e adattamento al cambiamento climatico e tutela della biodiversità, ovvero sull'urgenza di cambiare rotta e retribuire non le rendite di posizione, ma i servizi agroambientali che gli agricoltori possono fornire. Dopodiché la Commissione ci ha fatto ben sperare con la pubblicazione dell'European Green Deal e la relativa declinazione agricola, la strategia dal campo alla tavola, dove sono messi nero su bianco degli obiettivi ambiziosi, ma sicuramente di impatto. 25% di SAU bio, meno 50% fitofarmaci, meno 20% fertilizzanti e meno 50% antimicrobici in zootecnia e agricoltura entro il 2030. Ci avevate sperato? Avete preso tutto sul serio? Avete pure dedicato del tempo alla consultazione? Bene, sappiate che il 19 e 20 ottobre il Parlamento europeo ha votato a larghissima maggioranza, popolari, socialisti, democratici, FDD, insomma tutti, con qualche eccezione individuale, per non includere quanto stabilito nel Green Deal nel testo della nuova programmazione della PAC. In sostanza significa lasciare il 60% delle risorse agli aiuti diretti, quelli soliti che premiano la superficie e non quello che l'agricoltura ne fa. Il 20% che sto riservato agli ecoschemi, che è già ben meno di quanto inizialmente richiesto, è a serio rischio causa la subdola frasetta che stabilisce che i fondi non spesi nei primi due anni potranno essere distribuiti attraverso altri canali. Scommettiamo che nei primi due anni non si riusciranno a spendere? Inoltre, ogni Stato membro può dare spazio alla propria creatività nel definire i contenuti degli ecoschemi. Nonostante qualche emendamento positivo per il settore del biologico, la programmazione ne esce assai compromessa e ben lontana dalle ambizioni della Commissione, che rappresentavano quelle della società civile, ovvero di chi ci mette i soldi, ovvero sempre noi. Ora la palla passa al trilogo. Quella serie di negoziazioni tra Parlamento, Commissione e Consiglio che dovrebbero arrivare a conclusione per l'aprile 2021, ma già da ora è chiaro che non si può sperare altro che di evitare il peggio, non certo di ambire a qualcosa di meglio del business as usual degli ultimi 30 anni. Questa volta però la responsabilità non è dei cattivi burocrati di Bruxelles, la consapevole responsabilità sta tutta sulle spalle degli europarlamentari, quelli che abbiamo eletto noi cittadini, e per una volta quelli italiani si sono resi protagonisti di un brutto film, davvero un brutto film che avremmo preferito non vedere. Quanto vino si produce, quanto se ne beve e soprattutto quali sono le sue valenze economiche nel mondo, ce lo dice il professor Roberto Zironi, che all'Università di Udine insegna enologia. Secondo le statistiche dell'OIVE, nel quinquennio 2014-2018, la classifica della produzione media di vino dei principali paesi vede prevalere l'Italia con 48 milioni di ettolitri, seguiti da Francia e Spagna. Se consideriamo che nello stesso periodo la produzione media mondiale è stata pari a 271 milioni di ettolitri, risulta che questi tre paesi fanno da soli il 50% della produzione complessiva. Sempre secondo l'OIVE, nel 2018 i paesi maggiori consumatori sono gli USA, con 33 milioni di ettolitri, seguiti da Francia, Italia e Germania. Si può notare come tra i principali paesi consumatori abbiamo paesi produttori, ma che con la propria produzione non soddisfano completamente le richieste del mercato. Ad esempio la Germania produce soltanto il 45% del fabbisogno interno e gli usi due terzi. Altri paesi come Regno Unito e Canada sono forti consumatori, ma di fatto non sono produttori. Mentre paesi come Francia, Italia e Spagna consumano soltanto parzialmente il proprio prodotto, quindi sono costretti a collocare il vino in tutti gli altri paesi del mondo. Ne consegue che i maggiori esportatori in volume sono nell'ordine Spagna, Italia e Francia, che rappresentano insieme il 50% del mercato globale. Se però consideriamo le esportazioni in valore, la classifica si inverte, con la Francia che vale il 30% del mercato, l'Italia il 20%, la Spagna il 10%. L'Italia in questi ultimi anni, spinta anche da alcuni suoi brand, quali il Prosecco e il Pinot Grigio, ha incrementato la percentuale delle vendite sia in volume ma specialmente in valore, cioè si vende sempre di più nei mercati esteri ad un prezzo sempre maggiore. Nel 2019 il valore complessivo delle esportazioni enologiche italiane ha superato i 6 miliardi di euro. Ma com'era una volta? All'unificazione d'Italia il vino era azione giornaliera per quasi tutta la popolazione, sia in casa che nei pasti consumati sul posto di lavoro, ed è il vino a dare il maggior apporto calorico. Nelle zone di maggiore produzione viticola, per vini non sempre di qualità, si parlava tranquillamente di circa 6 litri alla settimana per gli operai. Questa situazione permane in Italia sino alla Seconda Guerra Mondiale. Poi, lentamente, il consumo di vino comincia a decrescere, ma se ancora nel 75 si consuma pro capite era pari a 100 litri, nel 2013 era sceso a 39 litri. Oggi la situazione presenta un lento miglioramento del consumo e nel 18 pare a 44 litri. A livello mondiale, soltanto Portogallo e Francia presentano consumi unitari maggiori dei nostri. E, dopo di noi, abbiamo una miriade di paesi, sia produttori che paesi consumatori. Questi ultimi sono i nostri potenziali clienti. Incrementare il consumo pro capite in questi paesi vuol dire aumentare il volume delle esportazioni, ma soltanto se riusciremo a incrementare la qualità percepita dei nostri vini. Diventa quindi indispensabile applicare alla produzione dei vini un'enologia di qualità. Il compostaggio è una pratica strategica per chi vuole avere un orto rigoglioso. Come farlo? Ci dice tutto Sara Bosco, che ci cura la rubrica dell'orticoltura. Oggi ci occupiamo di un tema importante che ci aiuta ad essere anche più sostenibili nel nostro orto di casa. Il compostaggio è un processo da cui si ottiene il compost, che è un materiale costituito da molti nutrienti utili per lo sviluppo delle nostre piante e che si sviluppa grazie alla decomposizione della sostanza organica operata dagli microrganismi presenti naturalmente nel nostro terreno. Il compost si può realizzare sia in un angolo del giardino, dell'orto, ma anche sul terrazzo, mediante l'utilizzo della compostiera oppure nel terreno scavando una semplice buca. La preparazione è molto semplice, infatti per costituire una matrice che abbia delle buone caratteristiche basta miscelare i materiali secchi con materiali umidi. È importante che ci sia una buona proporzione tra le due tipologie, altrimenti andrà addizionata acqua se il composta risulta essere un po' più secco, viceversa vanno aggiunti dei materiali un po' più secchi se troppo bagnato. Di tanto in tanto va mescolato però, per permettere un controllo dell'umidità e un'idonea aerazione per il buon funzionamento dei nostri microrganismi. Il tempo di preparazione oscilla dai 6 ai 12 mesi e una volta pronto viene distribuito nel terreno e interrato con le lavorazioni. Non c'è un periodo ottimale per la sua distribuzione, però è preferibile farlo con le concimazioni di fondo, che avvengono circa un mese, due prima della semina o del trapianto. Se il compost lo si decide di effettuare in terrazzo, però, non avendo il contatto diretto col terreno, va addizionato con del compost maturo, che ne fornisce microrganismi per innescare il processo di decomposizione. Spesso però c'è diffidenza nella sua costituzione per gli odori sgradevoli che potrebbe emanare, ma questo fenomeno non si verifica se viene rimescolato frequentemente e gestito in maniera oculata. Il compost che ne deriva perciò sarà un materiale utile in agricoltura, perché oltre ad essere un concime organico, è un ammendante e aiuta a migliorare la struttura del suolo e permette di riutilizzare gli scarti vegetali della casa, dell'orto, in modo sostenibile e altrimenti finirebbero come rifiuti. E inoltre va precisato che sia a disposizione un materiale naturale di cui si conosce appieno la composizione. Nella carrellata dei prodotti tipici, anzi tipicissimi del Friuli Venezia Giulia, Adriano Del Fabbro non poteva farci mancare la grappa. In Friuli la grappa vanta una cultura profonda che si perde nella notte dei tempi. Si dà il caso infatti che il 29 ottobre del 1334, per i festeggiamenti dell'investitura di Bertrando di Saint-Genis a patriarca d'Aquileia, facesse già parecchio freddo. Molte persone passarono la notte sotto i portici dell'imponente basilica, perciò alla mattina si provvide a portar loro conforto ricorrendo al miglior rimedio della vernaccia, del vin nero e dell'acquavite, che allora, esenti da gabella, si spillavano da botti e da botticelle collocate sui carri o sulle carrette. Si tratta probabilmente del più antico documento italiano sul distillato. Nel 1451, nell'inventario dei beni e immobili del defunto Ser Enrico di Ser Everardo di Cividale del Friuli, viene citato un alambicco. Nel 400 in Friuli i distillati di vinaccia non solo venivano prodotti ma pure esportati, come dimostrano alcune tabelle dell'epoca sulla riscossione dei dazi della dogana di Sacile. Pietro Andrea Mattioli, un luminare della medicina rinascimentale che esercitò a Gorizia dal 1540 al 54 ed ebbe in cura anche l'imperatore Massimiliano II, sosteneva che l'acquavite preserva la vita et custodisce, et ripara, nutrisce, difende, et prolunga la vita, imperoché non solamente ella conserva nel suo vigore il calore naturale, ma rigenera ed vivifica gli spiriti vitali, scalda lo stomaco, conforta il cervello, acuisce l'intelletto, chiarifica la vista ed ripara la memoria. Un suo contemporaneo, il medico friulano Giuseppe Rosaccio, magnificava le virtù salutistiche dell'acquavite con gli infusi d'erbe, tanto da scrivere un volume dal titolo «Della non trascurata cognizione della distillazione, ma della vera e ragionevole con il modo di cavar tutti i sali e le quintessenze di qualsivoglia vegetabile». Il produttore goriziano di acquavita da Vinasse, Marco Antonio Fiorentini, nel 1684 invia una supplica agli uffici del Dazio della Contea affinché si attivi nel contrasto dell'importazione di distillato foresto. Il capitano di Latisana nel 1732 proibisce la fabbricazione dell'acquavite, la quale probabilmente era molto diffusa nella Bassa Friulana, se nel 1806 la dogana segnala 23 laboratori di acquavite funzionanti nel territorio. Nel 700 un editto dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria ricompensa la fedeltà dei soldati friulani, concedendo loro l'autorizzazione a distillare la grappa in casa senza pagar gabelle. È uno degli emblemi gastronomici della nostra regione nelle sue varianti territoriali. È la jota, della quale oggi Roberto Zottar ci svela segreti e risvolti storici. La jota è uno dei piatti tipici della regione ed anche il terreno di scontro della competizione culturale tra friulani e triestini che ne reclamano la paternità. Sto parlando di una minestra, oggi principalmente a base di fagioli e patate, che a seconda delle località si declina con l'aggiunta di capuzzi garbi, cioè crauti a Trieste, o con l'impiego di brovada in Friuli, o con erbe o zucca in Carnia, o con farina di polenta orzo, e viene insaporita con muset, cioè cotechino, o costine, cotenna, o altra carne di maiale, affumicata e non, semi di kimmel. Dal sapiente diverso equilibrio tra tutti questi ingredienti nascono quindi le numerose varianti di jota, carnica della Valpesarina, Goriziana, Carsolina, Bisiacca, Triestina. Fa un buino jotto, è la prima citazione di jota in Friuli che risale al 1432 nei quaderni dei battuti di Cividale, e il termine jota potrebbe derivare dal tardo latino iutta, brodaglia, beverone, forse di origine celtica. La ricerca della paternità della vera jota può essere fuorviante rispetto al valore di un patrimonio culinario che attraversa la storia e le tradizioni delle tante culture che arricchiscono il mosaico di lingue e di popoli costituito dalla nostra regione. Direi che tutte le jote sono vere e al giorno d'oggi quasi tutte prevedono fagioli e patate e magari anche farina di mais. Però nel Medioevo, come affermava Piero Adami, erano probabilmente a base di fave. E se la jota triestina classica non è diversa da quella istriana, sempre con fagioli, patate, capuzzi garbi e costine di maiale, la jota goriziana è simile a certe jote carniche con repa, cioè brovada. In Friuli la jota è sempre stata considerata una pietanza di ripiego, tanto che si diceva si ha di vanzà che vanzi la jote, cioè se deve avanzare qualcosa che avanzi la jota, e le ragazze carniche cantavano «Simpri jote, mai polente lat, simpri erbi, se mai un biel fantat». A Trieste invece questa minestra è uno dei simboli culinari e identitari della città. C'è perfino un curioso ricettario triestino dal titolo Iotta Continua. E forse per evitare di schierarsi tra triestini e friulani, gli autori hanno pubblicato anche un altro ricettario dal titolo Frichissimo. Per realizzare una iotta triestina, fate cuocere in acqua 250 g di fagioli, 250 g di patate, costine di maiale, un osso di prosciutto, sale e pepe. Passate poi metà dei fagioli e patate per dare cremosità alla minestra. A parte, fate cuocere in acqua 250 g di crauti e una volta cotti aggiungetela alla minestra insieme ad un soffritto bruno di farina. Buon appetito! Come stanno andando le quotazioni dei mercati agricoli? Ce lo dice Amos D'Antoni. Mercato poco attivo e prezzi sostenuti venerdì scorso nelle contrattazioni di cereali agricoli della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 17,50 e 17,70 euro al quintale IVA esclusa, l'orzo con peso specifico 60,63 tra 16,20 e 17,10, il frumento tra 19,30 e 19,60 e la soia nuovo raccolto tra 38,70 e 39 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 1,60 euro e la soia di 5,70 euro il quintale. Domanda sofferente ma prezzi stabili nel settore caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 6,05 e 6,35 euro al chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, lo stagionato 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30, con marchio di qualità tra 8,90 e 9,30. Il latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia è stato quotato dalla commissione camerale di Pordenone Udine Franco Stalla a 36 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, mercato ancora in salita per gli avicunicoli, con i poli a terra pagati tra 1,10 e 1,12 euro al chilo IVA esclusa, i tacchini maschi tra 1,39 e 1,41, le anatre tra 2,30 e 2,34, le faraone tra 2,15 e 2,25, i conigli oltre 2,5 kg tra 2,44 e 2,50, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi di allevamento a terra è di 17 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Questo mese di ottobre, appena concluso, per quanto riguarda le precipitazioni, presenta un bilancio con valori elevati su quasi tutta la regione. I cumulati registrati sono stati anche del doppio rispetto al normale su Alpi e Prealpi Carniche, sono sfiorati 500 mm a Barcis e a Tolmezzo. E in più occasione, oltre i 1600 metri di quota, si sono osservate anche delle abbondanti nevicate. Le temperature medie sono state inferiori alla norma, con valori di quasi un grado in meno su pianura e costa, quasi 2 gradi in meno in montagna. L'anticiclone ora ci sta portando condizioni di stabilità atmosferica, ma da stasera sarà abbastanza probabile la formazione di foschie o di nebbia in pianura e localmente anche a fondovalle. Domani il ristagno di umidità sarà probabilmente più marcato, con maggiore nuvolosità su pianura e costa, foschie e forse anche qualche debole pioggia sulle zone orientali. Sui monti tempo migliore con cielo poco nuvoloso. Martedì, nuvolosità variabile su gran parte della regione. Sarà ancora possibile invece maggiore presenza di sole in montagna, specie in quota. Mercoledì un debole fronte sfiorerà la regione. In montagna qualche pioggia e un po' di neve oltre 2000 metri circa. Bassa invece la probabilità di piogge su pianura e costa, dove invece ritornerà a soffiare bora moderata. Nella seconda parte della prossima settimana, il consolidamento di un anticiclone sull'Europa centro-orientale e la contemporanea presenza di una depressione ad ovest della Spagna sembrano favorire tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno e correnti secche da est-nord-est. Quindi avremo probabilmente bel tempo, con persistenza di borda moderata sostenuta, specie sulla costa e sulle zone orientali. Le temperature al momento non sembrano subire particolari variazioni, nonostante il previsto afflusso di bora, rimanendo abbastanza miti fino al prossimo fine settimana. Ma come sempre, invitiamo a seguire l'evoluzione della situazione meteorologica e gli aggiornamenti quotidiani delle previsioni. Termina qui la puntata. Prima vogliamo lasciarvi però con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Paldì dai sans, la sciarpe e i guanz, ovvero per il giorno dei santi, la sciarpa e i guanti. Una volta iniziava a fare veramente freddo. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitanecampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato